È venerdì 17 febbraio, vi segnalo i titoli delle prime pagine, Il Sole 24 Ore, di cui oggi segnalo tra l'altro l'inserto Moda 24, nella nuovo inserto Imprese e Territori, il nuovo dorso di 12 pagine. Ebbene, Sole 24 Ore, cambiano le tasse su case e rifiuti, questo è il titolo di apertura, sanzioni triplicate per chi esporta somme illegalmente, imposta di soggiorno in tutti i comuni. Poi, proprio nel giorno dell'anniversario, 20 anni di Mani Pulite, c'è la corruzione che torna in prima pagina sui giornali per l'allarme della Corte dei Conti. La corruzione sta dilagando, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, lo stesso identico titolo su Repubblica, La Stampa, corruzione è sempre peggio, Il Fatto Quotidiano, la corruzione dilaga, nessuno fa niente, Il Messaggero, corruzione dilagante, è l'allarme della Corte dei Conti, Mani impunite, questo è il titolo del Manifesto, corrotti e mazziati, questo è il titolo dell'Unità. C'è chi invece sceglie ancora Sanremo, vale a dire Il Giornale, Celentano è un danno, e Libero, il naufragio della RAI, la prova che lei sapeva. Lei, ricordate, purtroppo lo devo sempre precisare perché è un cognome che si presta ai titoli, ma lei è il direttore generale della RAI. E Libero dice, sapeva tutto in un documento, la vera colpevole è appunto il manager RAI. Allora, da cosa voglio partire però, da come segnalazioni? Beh, notizie dalla casta, i costi della casta. Franco Bechis in prima pagina di Libero. Devo dire, Franco Bechis ieri ci ha illuso. Mannaggia, ci ha illuso, perché proprio ci aveva raccontato nei giorni scorsi che era ormai certo, molti super dirigenti di Stato avrebbero avuto lo stipendio, alcuni dimezzato, per il tetto a 304.000 euro imposto dal decreto Salva Italia per tutti i manager dello Stato. E quindi anche Befera, per esempio, il capo dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe avuto lo stipendio da 600.000 sceso a 304.000. Cari signori, cari ascoltatori, pare sia tutto uno scherzo. Niente tagli ai dirigenti pubblici e ai loro stipendi, così Franco Bechis in prima pagina di Libero, eccolo qui, ci aveva illuso, proprio lui che ci aveva detto così, e invece no, Franco Bechis, sono bastati 3 giorni di passaggio in Parlamento e il sospetto è divenuto realtà. È destinato a essere buttato ancora una volta nel cestino il decreto del Presidente del Consiglio Monti, che stabiliva un tetto massimo di 304.951,95 euro lordi per tutti i dirigenti pubblici, senza alcuna deroga. La certezza ormai è che Attilio Befera, il gran capo di Equitalia, Agenzia delle Entrate, salverà la sua busta paga dal dimezzamento. Così come riusciranno a tirare un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo dirigenti pubblici superpagati, come il capo di gabinetto dell'economia Vincenzo Fortunato, il ragioniere generale dello Stato Mario Canzio, il direttore dei monopoli di Stato Ferrara, i presidenti di 3 autorità di garanzia, Calabrò alla G-Comp, Truzzella all'antitrust, Bertoni all'energia, il presidente della Consob Vegas, tutti salvi. I loro stipendi resteranno intatti sulla base di un appunto tecnico, tutto nei cavigli e negli appunti tecnici, ricordatevelo, si nasconde sempre qui la fregatura. Preparato dagli uffici della Camera, è stato sollevato l'argomento principe che mette un bel salvagente ai boiardi di Stato. La Corte Costituzionale con le sue sentenze impedirebbe la reformatio impeius. Avete capito? Tu, Peter, che eri un genio in latino. Impedita la reformatio impeius del trattamento economico dei lavoratori. Cioè non si può fare una riforma peggiorativa. Tradotto, tutti salvi. Blizza la Camera, salvi gli stipendi dei burocrati. Ci avevi illuso, Franco Bechis, 3 giorni fa. Ci avevi illuso, ci avevi detto che li tagliavano questi stipendi. Sto battendo nervosamente la mano sul tavolo. E invece la reformatio impeius non è possibile. Come non è possibile, cari ascoltatori, sembrano delle barzellette a volte quello che vi racconto dai giornali, ma sono delle tragiche realtà, non è possibile cancellare una commissione che voleva le Olimpiadi a Roma. Cioè, Monti dice no alla candidatura delle Olimpiadi a Roma, ma la commissione Roma 2020, che nel Consiglio regionale del Lazio era stata istituita per prepararsi bene a questo possibile evento, che però non ci sarà più, quella commissione rimarrà in carica. Guardate, non è una barzelletta, è l'Unità. Lazio, 3 riunioni in un anno, chiudete quella commissione. Ma hanno trovato subito la fregatura per chiudere la partita della candidatura di Roma alle Olimpiadi 2020, un affare da 9,3 miliardi di investimenti, è bastato il no di Monti. Molto più tortuosa sembra essere la strada per chiudere la commissione giochi olimpici e grandi eventi istituita dalla Regione Lazio all'inizio del 2011, proprio in vista dell'evento olimpico. Intanto perché il presidente del Consiglio regionale Mario Abruzzese subito ha cambiato l'intestazione Commissione Giochi Olimpici in Commissione Grandi Eventi. Giochi Olimpici è sparita dopo il no di Monti, però Commissione Grandi Eventi rimane. E poi, eccolo qui l'inghippo, la commissione è stata costituita con legge regionale. Per sopprimerla serve un'altra legge regionale che modifichi la precedente. Risultato, la commissione rimane in piedi. Tra l'altro, sempre Libero, con Brunella Bollioli in prima pagina, mette questa storia: l'Olimpiade non c'è più, ma il magna magna continua. Ebbene sì, le pagheremo lo stesso, c'è una commissione preparatoria all'evento che non sarà sciolta. Quanto ci costa? 225.000 euro l'anno. È nata nel 2010, finora si è riunita solo 3 volte. Ovviamente i presidenti, i 4 consiglieri, i 2 vicepresidenti hanno diritto, alcuni il presidente ha 1.500 euro di indennità aggiuntiva, il vicepresidente ha 900 euro di indennità aggiuntiva, più auto blu, ufficio alla Pisana, 5 impiegati assunti nello staff, di cui 2 interni al consiglio, 3 esterni. Si sono riuniti 3 volte per un evento che non ci sarà più, le Olimpiadi di Roma. Non è tutto splendido quello che succede a volte in Italia? 24 mattino. Siamo qui alle 7.35 minuti. Allora, il procuratore generale della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino, proprio ieri, nel giorno, in realtà è oggi il giorno dell'anniversario dei 20 anni di Mani Pulite, 20 anni fa venne arrestato Mario Chiesa, il 17 febbraio 92, da lì iniziava Mani Pulite. Ieri l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, il procuratore Giampaolino ha detto che la corruzione pesa 60 miliardi di euro l'anno, cioè ha detto in pratica 20 anni dopo è tutto come se non peggio di prima. La corruzione dilaga, questo è il titolo, la corruzione pesa per 60 miliardi, l'ho preso dal Sole 24 Ore a pagina 11, la corruzione dilaga. Scrive Roberto Turno, vale 60 miliardi l'anno, va combattuta come la mafia. L'illegalità, il malaffare sono sempre più diffusi e devastanti. L'evasione fiscale è da record europeo. Come un disco rotto che si blocca sempre allo stesso punto, l'Italia è ferma al punto di partenza. 20 anni dopo Tangentopoli, sanità, opere pubbliche, frodi comunitarie, consulenze, opere incompiute, ritardati pagamenti ai fornitori, a un rosario senza fine di malversazioni, quello che si consuma ogni giorno ai danni della cosa pubblica e dei contribuenti onesti. Insomma, questa la denuncia, il pieno di accuse, il jacuzzi in piena regola della Corte dei Conti in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2012. Tra l'altro Roberto Turno intervista anche il ministro della Sanità Renato Balduzzi, sempre a pagina 11 a corollario dell'articolo, dice Balduzzi: proprio nella sanità la guardia va tenuta altissima, circolano infatti molti soldi, ci vuole la fermezza più assoluta. Sono i soliti allarmi che poi vengono lasciati cadere nel vuoto. Per esempio è polemico il Fatto Quotidiano in prima pagina quando titola e mette insieme: la corruzione dilaga e nessuno fa niente. E nessuno fa niente perché? Perché polemicamente viene fatto notare che il governo ha preso altri 15 giorni di tempo, e questo anche il Corriere della Sera lo mette a pagina 3 con Dino Martirano: la nuova legge contro le tangenti, dateci altri 15 giorni di tempo. Il ministro Severino ha detto: ci vogliono 15 giorni di tempo per mettere a punto le proposte del governo in materia di repressione penale della corruzione. una motivazione, ha detto il ministro Severino, che riguarda un vero ingorgo legislativo che assedia il ministero, visto che lei da sola, dopo il decreto carcere, quello sul processo civile, sta seguendo il testo sulle liberalizzazioni e quello sulle semplificazioni con il Tribunale delle Imprese. Insomma, per questo il ministro, come dire, c'è troppo lavoro, c'è un ingorgo di leggi di cui mi sto occupando in prima persona e dunque lasciatemi 15 giorni di tempo per affrontare seriamente la questione. Tra l'altro il quotidiano La Repubblica mette in prima pagina con Piero Colaprico proprio un esame nell'ultimo mese di alcuni casi di corruzione che sono finiti sui giornali, o presunta corruzione, per carità. Bisogna essere garantisti. Uno pensa, scrive Colaprico, si sa, i politici rubano, ma basta un mese di radiografia nel settore delle mazzette per riscoprire che, se a qualcuno fosse sfuggito, viviamo in un paese dove dilaga il tangentaro della porta accanto. Il titolo dell'articolo è «Impiegati, politici, infermieri». Così il paese delle tangenti prospera, contando sull'impunità. L'articolo continua a pagina 4. Infermieri che vendono la lista d'attesa, tecnici che mangiano sui controlli, amministratori delegati e consiglieri comunali, tanti s'arrangiano, è bastato solo un mese, anzi proprio quest'ultimo mese di arresti e indagini sulla corruzione spicciola e alta, per avere il senso dell'Italia per la mazzetta a 20 anni da Tangentopoli. E allora qualche storia. A Milano, per 100 euro viene arrestato il 24 gennaio un tecnico comunale, 54 anni, andava per negozi, tranquillo, autorevole, a annunciare che le insegne non erano in regola, che guaio, ma chi le ha fatte? Però con una cifretta ci si poteva accordare, così fan tutti. E poi ancora gli amministratori comunali, più si sfogliano le carte giudiziarie, più i prendenti, mazzette, riescono a vivere con allegra noncuranza le giornate della bustarella. Si registrano gli arresti per il sindaco di Porto Scuso, in Sardegna, che si occupava del mix tra un parco eolico e i fumi di un'acciaieria, e ci vuole bella fantasia. Stessa sorte per sindaco e vice sindaco di Castelnuovo di Ceva, 130 abitanti, 132 in due anni. 132 anni in due, scusate, il sindaco e il vice sindaco, che incontrano la polizia giudiziaria dopo 2 mesi di intercettazioni e 20.000 euro incamerati. Altra pantera grigia della mazzetta catturata ieri, consigliere comunale UDC di Sabaudia, 76 anni, Nicola Bianchi, è stato sindaco di San Felice Circeo, per cambiare la destinazione d'uso dello stabile chiedeva 5.000 euro a imprenditore. Ma la storia forse più emblematica, racconta Colaprico, avviene in Puglia. L'episodio culturalmente più interessante del mese, un infermiere di Molfetta, Ignazio Brattoli, accusato di chiedere una miseria, 20 euro a botta, per anticipare gli appuntamenti delle visite mediche specialistiche obbligatorie e gratuite alle quali i marittimi devono sottoporsi annualmente se vogliono imbarcarsi. Preciso, il camice bianco segnava nomi e date su un'agenda di colore rosso sequestrata. Pare andasse avanti da anni. 20 euro. E vabbè, questa è la situazione. Devo dire, la scelta più coraggiosa la fa il quotidiano nazionale, che nel profluvio di interviste, ricordi, reportage, racconti dei 20 anni di Tangentopoli intervista Stefania Craxi, la figlia di Bettino Craxi. La rabbia della figlia di Bettino, non c'è nulla da festeggiare, fu una barbarie. Così Stefania Craxi, 25.000 avvisi di garanzia, solo 4.000 arrivati a processo. Ci sono stati esili, non so, forse si riferisce a suo padre, lo chiama così, esilio. Ci sono stati esili, suicidi, carriere spezzate, un gruppo dirigente annientato, la giustizia in bancarotta, all'epoca ci furono violazioni di legge commesse dai magistrati di Mani Pulite, lo Stato di diritto ha fatto un enorme passo indietro. E su Bettino Craxi credo che la stragrande maggioranza degli italiani sia disposta a restituire a Craxi i meriti di Craxi. A opporsi è un blocco che esiste ancora nella società pubblica e politica, formata dalle forze responsabili della distruzione del Partito Socialista e del suo leader e da quanti sono stati legittimati da questa brutta storia di Tangentopoli, quasi tutte le forze della Seconda Repubblica. Così la rabbia di Stefania Craxi, intervistata dal quotidiano nazionale. Oh, come detto, noi alle 8.30 parleremo di ICI e Chiesa, perché sapete che ci sono delle esenzioni per tutti quegli immobili di proprietà della Chiesa Cattolica, ma non solo della Chiesa Cattolica, anche di tutte le altre confessioni religiose che vengono usate a uso non strettamente commerciale, sulle quali il Premier Monti vuol vederci chiaro. Allora, pare che non sia stato un argomento di colloqui ieri all'anniversario della firma dei patti lateranensi. Vertice in Vaticano, l'ICI resta fuori, così titola il Corriere della Sera, pagina 12. Tra l'altro c'è stato anche questo battibecco tra il leader dei radicali Staderini, che fa una battaglia di questo da anni, quando ha incrociato Rino Fisichella che attraversava la strada. Monsignor Fisichella, inseguito da una telecamera di Ballarò, Staderini l'ha provocato sulla catena d'oro e il crocifisso che porta al collo, con la risposta del vescovo: con questa non ti compri neanche un caffè, è bigiotteria. La lite Fisichella radicali monile d'oro è bigiotteria, la replica di Monsignor Fisichella. Sta di fatto che il Sole 24 Ore anticipa quelle che sono le linee guida di Monti a pagina 4 con Gianni Trovati. Il fisco punta al mattone delle onlus. Come potrebbe cambiare? Enti ecclesiastici, onlus, i sindacati che sono esentati anche loro dal pagamento, i partiti, le sedi di partito, le associazioni sportive, i circoli privati. Beh, Monti vorrebbe cambiare perché ci sono queste strutture miste nelle quali certo ci sono si perseguono degli scopi sociali e quindi va mantenuta l'esenzione, ma in alcune strutture invece c'è un qualcosa di misto. Allora l'idea del governo è quella di scorporare la parte adibita all'attività commerciale e far pagare l'ICI o l'IMU, se lo volete chiamare, in misura proporzionale a quella parte. Se c'è una struttura nella quale si fa uno scopo sociale, ma all'interno c'è un ristorante, magari, dove si guadagna, forse per quel ristorante, per quella parte dell'immobile, che dite? È il caso di pagare l'IMU, come tutti? Sta di fatto che, e ne parleremo alle 8.30, secondo il secolo XIX addirittura, non si è parlato di questo, di ICI, ma si è parlato di Celentano. E con il premier Bagnasco parla di Celentano. Pare che il cardinal Bagnasco abbia chiesto a Mario Monti: fermi l'ondata di anticlericalismo che sta imperando, a cominciare dal caso Celentano. Ma del caso Celentano parleremo dopo. Intanto, per contestare e cercare di fermare gli sprechi, pare siano state contate le famigerate auto blu. È un mistero il numero di quante auto blu di servizio circolino in Italia. Le auto blu, secondo Repubblica, la stampa dedica un articolo su questo, entrambi i quotidiani: oltre 2 miliardi di euro l'anno per 64.500 vetture. Quindi dovrebbe essere 64.500 vetture, è un conto a cui è giunto il ministro Patroni Griffi, la funzione pubblica, dopo mesi e mesi di monitoraggio, iniziato già dal predecessore Brunetta. Il ministro Patroni Griffi dice: devono diventare auto di servizio e non più uno status symbol. Beh, insomma, la provincia di Trento, con 184 veicoli, è sulla lista nera, la provincia di Trento. Tra l'altro non ha neanche fornito la risposta ai questionari della funzione pubblica, per cui il ministero ha dovuto fare i calcoli un po' a spanne. E poi la stampa racconta della storia della ASL più morosa d'Italia, la ASL 1 di Napoli. È commissariata tra l'altro da un ex generale dei carabinieri, Maurizio Scoppa, che dall'agosto scorso è lì per cercare di mettere a posto la situazione. Ha un parco da Guinness, 66 auto blu. Complimenti! Ci vorrebbero gli applausi in sottofondo, dovremmo istituire degli applausi ironici, no? Un parco da 66 auto in dotazione, auto blu. Anche un altro record, la ASL di Napoli. La ASL di Napoli paga una fattura mediamente... No, cioè in genere cosa si fa? La fattura a 30 giorni, a 60 giorni, a 90 giorni, a 120 giorni. La ASL 1 di Napoli paga una fattura a 1676 giorni, signori e signore. Tradotto, 4 anni e mezzo. Beh, insomma, se vi arriva, cari fornitori della ASL 1 di Napoli, pazienza, tenete pazienza. Che prima o poi vi paghiamo. 1676 giorni. Poi uno dice: la riforma della giustizia. Oggi ho letto questa storia sulla stampa, su cui non c'è nulla da ridere perché è la tragedia delle vittime dell'amianto e dell'Eternit che hanno per la prima volta trovato una sentenza che rende loro giustizia dal loro punto di vista e anche qualche risarcimento di soldi. Però io quando l'ho letta ho provato un sentimento misto di rabbia e scoramento per quello che vi sto raccontare, che oggi la stampa racconta a pagina 24. Eternit, la beffa del computer. Allora, la burocrazia in Italia è tale per cui succede questo. Decine di vittime dell'amianto perdono il risarcimento. Perché? Perché a far testo, per avere il risarcimento, e ora si è capito perché è durata 3 ore la lettura della sentenza, è proprio la lettura della sentenza del collegio che ha condannato i proprietari della Eternit. Cioè quello fa testo. Se il vostro nome, care vittime dell'amianto, non è stato pronunciato dal presidente del collegio perché nel file del computer è stata fatta la stampata e si sono dimenticati di stampare alcuni nomi delle vittime che erano nel file del computer, ma che per un errore burocratico, insomma, nella stampa si sono persi, se questi nomi non sono stati pronunciati formalmente dal presidente del tribunale, non hanno, ripeto, non hanno diritto al risarcimento. È una storia incredibile. A decine perdono il risarcimento perché il loro nome è svanito nel passaggio dal file su computer al testo scritto, cioè avrebbero diritto perché sono nel file del computer, quindi è stato accertato il fatto che loro siano vittime. Ma siccome nella stampa si è perso qualche foglio, il loro nome non è stato pronunciato nella sacra aula del Tribunale di Torino, il presidente, non per suo errore, ma non gli hanno dato il foglio, ha dimenticato di pronunciare qualche nome, il risarcimento è perso. Non siete più vittime secondo la burocrazia della giustizia. Dovrete fare ricorso in appello perché vi venga riconosciuto il diritto che era già sancito visto che eravate nel file del computer. Io non ho commenti aggiuntivi da dare. Questo succede. Allora, pare che Adriano Celentano, scendendo dal palco dell'Ariston, così svela il secolo XIX, abbia detto quella sera, sì, incrociando il cappellano del, e quindi un prete, il cappellano dell'Ariston, sì, lo so padre, ho esagerato, lo so. No? A quel punto è intervenuta Claudia Mori e l'ha portato via, dicendo, vieni via, non bisogna parlare con nessuno. Sta Claudia Mori lo tiene a stecchetto Celentano da una 20, 25, 30 anni, no? Adriano si confessa, ho esagerato, lo so, padre, ma che noia qui a Sanremo. Queste le uniche parole dette al cappellano. Mentre ha esagerato anche, secondo il ministro Elsa Fornero, la TV. Il ministro Elsa Fornero ha detto, non guardo più la TV da mesi e sono offesa per come vengono trattate le donne. Il corpo delle donne e la TV. Si riapre il dibattito, ci sono giornali che ormai si scervellano, paginate su questo, Libero apre su questo, il Giornale su questo, la farfalla di Belen, il tatuaggio, intendevo quello. Pagina 4 di Libero c'è anche il mistero svelato, sì, eccole qua, riprese, c'è una foto che fa vedere, lo spacco è, come dire, epocale, e le mutandine si vedono, ce le aveva, erano, si chiamano Starpless G-String, in pratica è uno slip adesivo, c'è anche la foto riprodotta poi di queste strane mutandine adesive, le aveva, particolare bollente aveva Belen, che fa un'intervista a Repubblica e dice a Silvia Fumarola, pagina 51, sapevo che lo spacco era esagerato, era il vestito che gioca tutto sulla trasparenza, ma faccio parte del mondo della TV e la TV è show, non scrivo leggi, farebbe clamore se fosse una parlamentare a scendere le scale con quello spacco, come dire, io invece posso Belen Rodriguez. Concludo pochi secondi per dire che Amanda Knox, ve la ricordate, assolta per il delitto di Meredith Kercher, venderà le sue memorie, lo trovate sul Quotidiano Nazionale, su Libero, a 4 milioni di dollari, le sue memorie per scrivere la sua biografia. 4 milioni di dollari. Il giornale radio.